Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuta a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il film di cui parleremo oggi è Oliver and Company, del 1988 ed è il 27esimo classico Disney. Il film è ispirato al romanzo Oliver Twist di Dickens, però ovviamente è stato fatto in chiave Disney, infatti i personaggi sono quasi tutti degli animali. Inoltre l'ambientazione è un po' innovativa, perché infatti il film si svolge nella New York degli anni 80, insomma nella New York contemporanea al film. Il protagonista è Oliver, un gatto randagio, che vive insieme ad altri cani, anch'essi randagi, capitanati da Dodger, e tutti vivono con un senza tetto di nome Fagin. Fagin ha un debito con un gangster. In tutto questo, Oliver viene adottato da una bambina che fa parte di una famiglia veramente facoltosa. Il gangster però rapisce la bambina e quindi Oliver e tutti i suoi amici cercano appunto di salvarla e nel frattempo anche saldare il debito del suo padrone. Alla fine ci riescono e ovviamente ci sarà un lieto fine. Il film è molto innovativo, soprattutto per il fatto che finalmente, dopo molti anni, la Disney ha riproposto un lungometraggio con delle canzoni. Anche precedentemente c'erano delle canzoni, però questo era proprio un lungometraggio musicale, cosa che avverrà solamente dopo con La Sirenetta. E anche l'ambientazione, ovvero New York, che era molto innovativa per un film della Disney, dato che di solito si ambientavano in situazioni più fantastiche o in mondi molto diversi, questa ambientazione è stata particolarmente innovativa. E il film ha riscosso anche un discreto successo proprio per questo motivo. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.